ho un dolore alla mano, mi dà un fastidio, ma nessuno se n'è accorto. Ho paura che sia solo l'inizio, questione di tempo, poi il dolore potrebbe passare a tutto il corpo, potrebbe, perché no, potrebbe uccidermi, non so che fare, può essere che passi a tutto il corpo, può essere, ma a chi ne parlo? Questo non è un dolore normale, porca puttana, tipo dolor di denti che ci metti il ghiaccio, no! Il ghiaccio qui non serve, e neppure i calmanti. Qua c'è un nervo da addormentare nel cervello. Questo è un disturbo che va a memoria. E non si tratta solo della mia memoria. È come un segnale. Se bevo, vomito. Ieri ho bevuto e ho vomitato tutto il giorno, quindi non bevo, non ho voglia di vomitare tutti i giorni. E poi, anche se bevo, il dolore resta. È un dolore che ci pensi, che ce l'hai sempre lì, non se ne va, ti dà il tormento. È da qualche giorno che ce l'ho. Lì per lì non ci avevo dato peso. Alla mia età qualche doloretto capita, no? Non l'avevo mica ancora collegato. E no, poi ho capito e ho rivisto la scena. Stringeva la mia mano così forte da farmi male quel giorno. Ecco perché mi fa male. Non ne ho mai parlato con nessuno, non posso. Mi piacerebbe parlarne con qualcuno, dire com'è andata. No, no, non cerco giustificazioni. Quando sono in giro me la strofino, è quasi un tic, ma nessuno ci fa caso. Il dolore alla mano mica si vede. No, se non glielo dici alla gente, non è neppure gonfia. Nessuno se ne accorge. E del resto, chi è che può intuire il dolore dell'altro? Bisognerebbe guardarlo attentamente negli occhi, l'altro, per capire se soffre. Ecco, magari guardandolo attentamente negli occhi, ma sì, lo vedi il dolore, se ce l'ha. Ma chi è che si mette a guardare uno dritto negli occhi, per strada? E no, se qualcuno lo fa, lo ricoverano o lo picchiano. Nessuno ha tempo per nessuno. In questo palazzo io so tutto di quelli che ci abitano, ma nessuno sa niente di me. Credono di sapere, ma non sanno niente. Quando incontro qualcuno nelle scale, chiunque sia, sta leggendo. Fingono di leggere, fanno finta, perché hanno paura che gli attacchi il bottone. E io, appena li sento passare, lo faccio apposta. Apro la porta, li guardo e faccio salve, e loro salve, buongiorno, buonasera, da dietro il giornale. Non abbassano mai il giornale, mai. Litigano, fanno all'amore, si intossicano, piangono, cacano ogni giorno. Sono anni che abitano qua e non hanno ancora capito che queste pareti non riparano niente. Siccome hanno riscattato gli appartamenti e hanno fatto la facciata nuova, credono che questo non sia più un palazzo INA, casa del 63. I palazzi qua, nel 63, spuntavano come funghi, 7-8 al mese, e gli davano pure un nome. Stava scritto su una targa che era attaccata fuori dal palazzo, ma qualcuno se l'è presa. C'era scritto l'832, mi pare. Certo, non ci voleva la scienza per capire che venivano su troppo veloci per avere pareti solide. Anzi, venivano su talmente veloci che a un certo punto ti alzavi la mattina e ce n'erano due nuovi. Sì, signore, nel 63, qui attorno, c'erano palazzi che parevano piovuti dal cielo, tante astronavi conficcate nei campi, tra la merda di pollo, le erbacce e i fossoi scolo. Al market c'è quella ragazza con la faccia gentile. Potrei parlare con lei, ma non so il suo nome. Ha il cartellino con su scritto il nome, ma io mica ci vedo bene. E quando sono fuori ho vergogna a metter su gli occhiali. Gli occhiali li tengo in casa quando leggo o mi stiro le camicie. Alla TV no, quella per lo più la sento mentre stiro le camicie. Ma allora ho sugli occhiali e dunque non guardo la TV. Quella la sento, ma insomma, sento che è grave. Certe cose si sentono, ma dal dottore non ci vado. Neanche morto ci vado dal dottore. Ma cosa ci vado a fare dal dottore, che non capisce niente? Lo so, è mio cognato e lo sa anche lui. Non che è mio cognato, che non capisce niente. Un tizio gli è morto in ambulatorio. C'aveva la peritonite e lui lo curava per l'ansia. Gli stava giusto dicendo di non preoccuparsi per l'ansia, che quello è andato giù davanti a lui, così veloce che lui non se n'era neppure accorto e stava già pensando a un'allucinazione quando ha sentito il colpo. Allora si è affacciato dalla scrivania, ha chiesto «Tutto bene?» e l'ha visto in terra, steso come un baccalà. È stata la segretaria a diagnosticare la morte per peritonite, mica lui! Lui si è solo sbrigato a far sparire la ricetta degli antidepressivi che il morto teneva ancora stretta in mano. Pareva che il morto non la volesse restituire, pareva che volesse vendicarsi, ma lui gli ha aperto la mano dito per dito. Come faccio a saperlo? Queste cose si sanno. Mi terrò il dolore, mi terrò. Prima o poi tutto passa. Questo non è un dolore normale, è una trasmissione di dati. È iniziato lo stesso giorno che l'Eugenia. Sì, sì, quel giorno lì, quando l'Eugenia mi è passata davanti. Quel giorno non l'ho mica ancora dimenticato, sembra ieri. Ce l'ho ancora stampato qui, davanti agli occhi, porca puttana. Ho fatto appena in tempo ad alzare gli occhi e l'ho vista, che volava, con la sottana alzata. Sembrava mi venisse incontro. Dicono che buttarsi da un palazzo e spiaccicarsi a terra sia roba di un attimo un cazzo. L'Eugenia è venuta giù alla velocità di una foglia che volteggia nel vento. Ho anche pensato di acchiapparla a un certo punto, magari sporgendomi un poco ce l'avrei fatta. Il giorno dopo tutti si fermavano a parlare con me per via del suicidio. In quel momento lì ero alla finestra e tutti volevano sapere da me se l'Eugenia, mentre veniva giù, urlava, rideva o pisciava dalla paura. E io ho detto a voce alta che forse potevo acchiapparla e il vicino si è messo a ridere. Ha detto che sono matto, che se mi avesse colpito. Si è zittito un attimo e ha fatto un rapido calcolo tra il peso dell'Eugenia e la distanza percorsa, tra la gravità della Terra e l'asse terrestre, facendo anche delle genuflessioni, e ha detto che l'Eugenia andava giù ai 100 km orari e che sarebbe stato come essere colpiti da un meteorite grosso come una noce. Anche il dentista, sì, il dentista del piano di sopra, si è fermato con noi. Poi dicono che sono io ad attaccare bottone. Voleva sapere. Si era perso il suicidio e voleva tutti i dettagli. Tipo se l'Eugenia era ancora riconoscibile dopo la botta. Soprattutto se i denti suoi, avessero retto l'urto. Il molare senz'altro, diceva con l'aria di chi se ne intende. Il molare. Fateci caso, resta sempre attaccato. A quel punto si è aggiunto anche l'altro vicino che lavora all'IKEA, voleva dire la sua. Sosteneva che se l'Eugenia fosse caduta in un certo modo, poteva rimbalzare. Diceva che un uomo che si butta da un palazzo può rimbalzare fino al sesto piano, una donna invece fino al quinto. Giurava di averlo visto in un programma in TV che si chiamava appunto Rimbalzi. Diceva che un uomo si era buttato dalla finestra della camera da letto dell'amante mentre il marito di lei tornava ed era rimbalzato rientrando per la stessa finestra, nella stessa stanza, giusto in tempo per trovarci il marito seduto sul letto che si stava togliendo i calzini. Avevano fatto amicizia e adesso vivevano tutti assieme. Poi, mentre il vicino ci cantava la sigla del programma, il discorso è tornato sul suicidio dell'Eugenia. Io ero contento che eravamo tutti lì sul pianerottolo a parlare. Non mi importava di cosa. Non ero solo. Il dentista, l'Eugenia, non sapeva proprio chi fosse e non riusciva a ricordarsela. Il mio vicino ha provato a spiegargliela, ma mi sa che neanche lui lo sapeva benissimo. Gli ha detto che era bionda, l'Eugenia era mora. Il discorso poi, però, si è impantanato in una giungla del Borneo. Il dentista era appena tornato da un viaggio e diceva che là, nella giungla, se vuoi bere e non c'hai più da bere, devi incidere le foglie di un son cazzo io, che se però sbagli, le foglie possono ucciderti. A quel punto ho detto «accidenti!» Ma più peraltro l'ho detto per far vedere che io c'ero, ma non mi hanno neppure sentito. Poi il dentista ha iniziato a dare colpi di gomito a tutti e ha detto che se nella giungla a volte ti venisse in mente, insomma, se vuoi, ci siamo capiti. Allora la cosa si fa più dura perché con quel caldo allora devi prendere un particolare scorpione e inciderlo e spremergli il veleno che però poi, insomma, ci siamo capiti, è miracoloso. E lui ce n'aveva ancora un po' e pensava di venderlo ai colleghi della ASL che se poi non lo usi per quello... funziona anche per le ossa quel liquido miracoloso che fa, insomma, ci siamo capiti. Io ho detto allora che forse serviva anche a me. Hanno riso tutti, ci siamo capiti e me ne sono andato via. Ieri li ho chiamati. Li ho chiamati tutti e cinque e li ho trovati. I miei vecchi amici. Stanno tutti bene, come me. La nostra è una generazione solida. Noi siamo cresciuti qua, tra le crepe, nel cemento, come l'erba gramigna che cresce dappertutto, come i cani randagi, tra i copertoni, i vetri rotti, i materassi buttati. Noi giocavamo qua, nei palazzi polverosi, sempre assieme per non sentirci soli, sempre assieme per non sentirci abbandonati. Li ho avvisati, sì, i miei amici. Prima verranno a prendere me e poi andremo da loro. Andremo via, tutti insieme, come una volta. Quel giorno lì, il giorno dell'Eugenia, non c'era altro da fare che starsene alla finestra. Boccheggiavamo tutti dal caldo quel giorno lì. Gli appartamenti evaporavano come forni e noi pure. Eravamo tutti alle finestre ad aspettare il fresco della sera. Anche il palazzo scricchiolava, che era una meraviglia. Sembrava un gatto che stira le giunture. Caldo eccezionale, lo diceva pure il telegiornale, un caldo parabolico, satellitare, senza filtro, che t'arrivava in testa a tradimento dall'ultimo piano al primo. Abbiamo visto tutti, tutto, tutti abbiamo assistito. L'Eugenia ha scelto con cura l'ora e la platea, anche i bambini, sì signore, anche loro che stavano a sdoganare il caldo ciucciandosi i ghiaccioli. Nel quartiere era tutto un ciucciamento. Ciucciavano il calippo tutti quanti. E nelle terrazze i babbi li sentivi. Ti ho detto di non appoggiarti all'antenna, maledetto. E giù schiaffa il figlio. E il figlio e vai, e ricciuccia, e riappoggia, e vai. Che trema l'antenna, e maledire, e succhiare. E Lilli Gruber che fa il telegiornale, e un posto al sole, e gli europei, e la musica, che se va bene la Carrà, se no è rumena, da dopo il semaforo. Così, in un girone ad eliminazione. Cinesi, marocchini, italiani, impiegati, malesi, saldatori, friulani, marinai da porto, da diporto e da mercato. Scaricatori siciliani e nepalesi, malsani e sani, tutti al caldo, con i ragazzi più grandi sulle terrazze catramate, che se ti appoggi ti ci appiccichi sulle terrazze a commerciare, chi commercia e chi fa il palo, a volte sbucasse una pattuglia, non si sa mai, ma sono dei bravi ragazzi, presi uno a uno si fanno in quattro per aiutarti, presi tutti assieme ti fanno in quattro, loro, per divertirsi, magari per aprirti e vedere cosa c'hai dentro. È un po' così che vanno le cose. Da soli si è in un modo, insieme si è in un altro. È la natura, è la legge di natura. Non puoi farci niente. Anche gli animali fanno così. Prendi i cani, a volte li vedi che si accoppiano e sembrano stanchi di doverlo rifare, fanno ridere, ma è la natura, mica fanno paura. Poi, quando sono in branco e viaggiano assieme, allora diventano pericolosi. È la natura. Insomma, c'eravamo tutti. C'eravamo tutti. Quando l'Eugenia si è giocata il carico. È venuta giù, come l'asso di picche, dal balcone del quinto. In quel momento lì il vicino canticchiava in bagno, a finestra aperta. Ha detto «Gesù!» L'ho sentito. Ha detto Gesù quando è passata. Io non ho detto niente. L'ho solo guardata venire giù dal quinto e poi non l'ho più vista, perché il lato di lì è nascosto dalla palazzina dei fiori. Due piani e poi l'asfalto. Così non ho visto la botta, ma l'ho sentita. Uno spattumarsi leggero e senza eco, che sembrava una stagnola appallottolata nel palmo di una mano, o meglio ancora il gelato in mano a un bambino, e poi casca e fa quel rumore, ma è più facile che caschi a un adulto che a un bambino il gelato. Ho visto i due gemellini dell'interno 3 passare con dei coni più grossi delle loro teste, viaggiavano a passetti lenti e corti, non cadeva nulla, casomai gocciolava, con quel caldo sgocciolava. Il silenzio che c'è stato subito dopo faceva impressione, come se i televisori si fossero spenti tutti assieme, come se le liti quotidiane fossero finite per sempre. Il vicino stava affacciato a bocca aperta, i pezzi di schiuma da barba gli si staccavano dalla faccia e cadevano giù, plaf, plaf, facevano, sembravano panna montata. Poi mi ha guardato e mi ha detto «A cos'era?» Non gli ho risposto. Sono rientrato in casa e in quel momento tutti hanno urlato, come se qualcuno avesse fatto un gol, come se fosse esplosa una bomba, come se tutti avessero ripreso fiato. Poi io mi sono sentito stanco, sono sceso dal gradino della finestra e mi sono grattato sopra un'anca. C'avevo un rossore, mi aveva punto uno strano animale, alcuni per punture di insetti gliene basta una, vanno in shock anafilattico e poi ci vuole fortuna, mica lo sai se sei allergico, se sei alleato alla fata fortuna, come diceva mia madre, se sei alleato alla fata fortuna, lei ti porta in volo quando le cose diventano brutte e così te la cavi, sempre. Non ho mai creduto alla fata fortuna. Ma quando ho visto l'Eugenia volare verso di me, ho pensato che era lei, la fata fortuna, e stava venendo a prendermi, ma non era vero. Poi il suo corpo ha fatto quel rumore sull'asfalto. Mio padre mi diceva sempre: Palmiro, il destino ce lo scriviamo da soli. Datti da fare e soprattutto non farti fregare, perché l'umanità è fatta così, non cambierà mai. E se ti arrendi, qualcun altro deciderà per te. Mio padre era il segretario della sezione del PC e attaccava continuamente quadri in casa. Ne toglieva uno e ne metteva un altro. Ne toglieva un altro e ne metteva uno. Se nella sezione cambiavano direttive, lui portava a casa le vecchie per le nuove. E così noi conoscevamo in tempo reale le svolte, come fossimo stati un pezzo del Comintern. Immagini di Gramsci, di Di Vittorio, busto di Lenin. Stalin no. Svolta internazionale. Guevara, Cuba, Siqueiros, Fidel, Tupamaros, Allende. Rientro nei ranghi per il sorpasso. Paglietta, Terracina e Berlinguer e i funerali di Togliatti. Mio padre si è bevuto l'imbevibile e l'hanno preso che cercava di infilarlo nel culo ad un traliccio dell'alta tensione, di quelli di cemento. E meno male che non pioveva. Quelli, quando piove, sono anche più pericolosi con tutta la corrente che disperdono. Era tutta la notte che glielo prometteva. Ogni volta che usciva dalla cantina a fare un po' d'acqua, insomma a pisciare, si appoggiava puntando la testa al cemento e con la sigaretta accesa tra i denti e gengive scoperte mormorava: compagna, aspettami qui, dopo vengo, portami in puttana e ti sfondo. Quando faceva quel garbo, mio padre era tale e quale a Jean Gabin. Non quando pisciava, dico quando fumava, con la sigaretta un po' di traverso. Dove avesse visto il buco e come avesse fatto ad infogliarsi così in un crescendo di urina a quell'età poi, e soprattutto con un traliccio di cemento, proprio nulla stimolava alla sodomia e nulla ricordava mia madre, se mai avessero avuto in uso quei modi i miei vecchi. Mia madre era più simile a un cassonetto, se mi è concesso, insomma era più larga e più accogliente di un palo. Ah, oh, il dolore alla mano è iniziato quel giorno lì, quando l'Eugenia è scesa e i nostri sguardi si sono incrociati. È come se mi avesse passato un po' del suo dolore, e per buttarsi così a tuffo bisogna avere dentro un gran male davvero. Non è certo per sport, come quelli che si legano le caviglie con l'elastico e giù dai ponti e tornano su e poi arrivano in giù e poi rivengono su e si fanno fare anche la foto, quelli. L'Eugenia invece si era spappolata lì, elastico Nisba, però aveva le calze color carne, 15 denari, ultravelate e tacchi alti, e indosso un tailleur rosso prugna che con le cervella poi ha anche fatto pandan. Ma questo me l'hanno detto due ragazzi che gli hanno fatto anche la fotina col cellulare, che poi ha girato un po' sui canali del computer. L'Eugenia si era vestita così. Si era vestita così, apposta per l'occasione. Perché sennò con quel caldo, le calze, me le devi spiegare. Era bella l'Eugenia. La mamma, quando era viva, mi diceva: povera Eugenia, non dovrebbe fare così, non dovrebbe svendersi all'amore, poi non ne avrà nulla in cambio, non dovrebbe fidarsi degli uomini con le sopracciglia che si incontrano sul naso, la notte al buio si trasformano in lupi e la sbranano. Gli uomini con le sopracciglia che si incontrano sul naso, per mamma erano tutti quelli che avevano a che fare con l'Eugenia e che, secondo mamma, se ne approfittavano. Avrei tanto voluto dire a mia madre che l'Eugenia non aveva nulla da temere da quei tipi, per il semplice motivo che l'Eugenia era già stata sbranata molto tempo prima, ridotta a brandelli molto tempo prima, e non si può più sbranare chi è già stato sbranato. E chi l'aveva sbranata non erano loro. I lupi, mia madre, li aveva nutriti e sfamati e pettinati e amati, e le stavano davanti adesso. Quando ero ragazzo, i miei eroi erano di diversi colori, come gli eroi dei fumetti, come gli occhi dell'Eugenia. I miei eroi avevano i colori chiari del cielo e della terra d'estate. Quando ero ragazzo, anche l'amore aveva dei colori precisi, i colori delle gru che da dentro i cantieri ci guardavano, me e l'Eugenia, tornare a casa la sera, che da dentro i cantieri, come enormi cani da guardia, ci osservavano, me e l'Eugenia, attraversare nel buio gli orti, colmi dell'odore dell'erba, dell'odore dei fossi. Quando ero ragazzo, il buio nero che ti toglie il fiato non esisteva. Anche il buio non era nero, era viola, blu, ma non nero. Il buio nero che ti toglie il fiato lo conobbi un giorno. Avevo 14 anni, mentre qualcuno teneva chiuso il portone. Aveva 14 anni e cercavamo Eugenia sotto la gonna, tra le mutande, in 6 su per giù, della stessa età, in 7 con lei. Qualcuno le tappava la bocca e teneva la porta, e se sentivamo dei passi là fuori, trattenevamo tutti il fiato. Signore, fa che non venga nessuno adesso. Signore, mandali via. Signore, fa che non venga nessuno adesso. Era buio nel sottoscala, buio come nel fondo di una galleria, dove non vedi i volti e neppure le lacrime. Ognuno in silenzio aspettava il suo turno. Signore, fa che non venga nessuno adesso. Signore, mandali via. Storie di animali in calore, storie di maschi in calore, eserciti che per secoli hanno reclamato il diritto di fare bottino, di razziare le donne. Obbedivamo a un ordine antico, schiavi e padroni uniti nella supremazia del seme, nel diritto del randello, dividersi la preda tra commilitoni, o ripetevamo la lezione imparata dietro la chiesa, tra la scuola e la casa. Ero stato io a portarla lì a ripetere la lezione con noi. Femmina che non puoi essere, strega che ci provochi, che scateni in me quando mi passi davanti un desiderio doloroso, puttana che non potrò mai averti. Perché? Perché sei così diversa? Diversa dalle altre donne? Perché non sei buona come la Dolce Maria? Perché non sei pia come la madre superiora della scuola? Soprattutto perché non sei brutta come lei? Perché mi guardi così, come se volessi sfidarmi, invece di guardarmi come fece mia madre il primo giorno che mi vide? Perché non sei casta come le nostre madri e sorelle? Perché non sei sbiadita e silenziosa come loro? Nessuno più le guarda, ingobbite sul pavimento, ingiallite in cucina. Non lo so a cosa obbedivamo. Forse a niente. Forse eravamo solo crudeli. Una volta finito, un poco di luce rischiara l'androne. C'è sangue per terra. Camminare per mano verso casa. Signore, fa che non lo sappia nessuno. Eugenia, incapace di fare e di andare. Andare a casa. Attraversare strade, campi, cantieri, le gru che ci osservano. Eugenia non viene. Poi viene. Ecco la porta di casa. Stringo la mano, fa male. Lascia la mano. Ecco la porta. Lasciami! Non l'ho più rivista per molti anni. Era il 21 agosto del 1964. Mio padre rientrò a casa quella sera, bianco come uno straccio. Io mi preparai a prenderne tante. Il cuore mi batteva forte. Papà venne verso di me e mi abbracciò. Mi abbracciò, ma non l'aveva mai fatto. Mio padre non abbracciava nessuno, tranne i tralicci di cemento, ma va detto che papà era un addetto alle linee Enel. Poi abbracciò mia madre e mia sorella. Le abbracciava e piangeva. Alla fine disse che era morto Togliatti e disse che adesso erano cazzi. Ma non potevano morire Almirante, Rumor o Fanfani. Non avevo mai visto mio padre piangere. Piangeva così tanto che alla fine io pensai che Togliatti fosse un amico di papà e che l'Eugenia lo avesse accusato del nostro peccato e che Togliatti dalla vergogna fosse morto. Quel nome, Togliatti, fece così l'entrata nella mia vita. I giorni dopo l'episodio rimasi con il fiato sospeso, ma nessuno disse niente. L'Eugenia era scomparsa. Nessuno moriva dalla voglia di sapere che fine avesse fatto, tranne me. La radio trasmetteva le cerimonie dei funerali di Togliatti. Mio padre diceva di stare tranquilli. Ricominciai a fare le solite cose. 8 anni dopo, Eugenia mi si parò davanti all'improvviso, un pomeriggio. Stavo rientrando a casa, mi si avvicinò in silenzio. Non dissi niente mentre mi annusava come un animale. Mi aggrappai istintivamente a un palo della segnaletica, come fosse l'albero di una zattera perduta nella burrasca. Tutto fluttuava intorno a me, sentivo il suo respiro sul volto. Poi se ne andò, io rimasi lì finché il mare non si calmò. L'Eugenia riapparve di nuovo, il giorno dopo, e per altri giorni ancora, sempre all'improvviso, finché un giorno mi acchiappò. Farfugliai qualcosa di incomprensibile. Lei mi fece sedere in un bar, mentre cercavo di calmarmi, mentre cercavo una frase, con la bocca piena di saliva, il respiro corto, il batticuore, il sudore e lo schifo. Quante notti insonni a ripassare il suo volto, le sue gambe accavallate e la curva dei suoi fianchi. E ora che l'avevo davanti, ora l'avevo davanti, e ora rabbrividivo. I suoi occhi piantati su di me, Gesù, facevano male. Quello sguardo mi entrava nella carne come un chiodo. Guardando qualcuno in quel modo, puoi raggiungere il suo punto più profondo, dove spalargli via l'anima e ucciderlo. Gli occhi mi bruciavano. Aveva preso la mia mano tra le sue e l'aveva appoggiata sul libro che aveva messo sul tavolo del bar. E mi disse di giurare. Giura. Giuro che cosa? Giura. Giura che racconterai a tutti quello che mi avete fatto. Giura su questo libro. Io lo so che eri innamorato di me. E sei ancora più colpevole. Sei ancora più colpevole di loro. Anche se tu non mi hai toccata. Tu sei un coniglio. Ma perché non ci hai denunciati? Non mi avrebbero creduta. Ma adesso tu racconterai tutto, è vero? È vero che lo farai? Le parole mi morivano in bocca. Tutti ci guardavano nel bar. Alla fine le dissi: ma perché io? Perché? Perché ero innamorata di te. E perché tu mi hai portata lì. Restai in silenzio. Eugenia si alzò. Non la guardai uscire dal bar. La incontrai molte altre volte e ogni volta mi guardava senza dire nulla, ma io non volevo guardarla perché io non volevo andarci a denunciare e pensavo che alla fine lei si sarebbe stancata di apparirmi davanti. E poi ogni giorno di più io la desideravo e lei se ne accorse e mi portò in un prato. E poi alzò la gonna e mi disse: «Vuoi questa?» mi disse. E io, senza dire una parola, entrai dentro di lei, ma rimasi lì senza muovermi. Avevo un freddo cane, molto freddo, e così provai anche a baciarla, ma lei mi spinse via sputando e pulendosi la bocca con le mani. «Non hai capito un cazzo, non mi devi baciare», mi disse. «Mi fai schifo, continua adesso». Ma io rimasi lì sul prato, con le mutande arrotolate, con l'erba dentro il culo. «Non hai proprio capito», disse, e se ne andò. Non la rividi mai più. Quella sera mio padre entrò in camera mia, mi guardò con un'espressione seria, teneva nascosto dietro di sé un oggetto che non distinguevo bene. Lo teneva dietro di sé come se se ne vergognasse. Restammo in silenzio e pensai avrà saputo qualcosa. Invece disse: «Lo attacco qui». Aveva in mano il quadro dei funerali di Togliatti. Di nuovo lui, pensai. Pensai che l'Eugenia e Togliatti avessero qualcosa in comune, oltre il fatto che io ero innamorato di lei e mi chiamavo Palmiro. Mio padre iniziò a martellare, girato di spalle. Dopo un po' disse: «Ho pensato di regalartelo. Hai sempre ricordato la data della sua morte». Strana cosa le date. «Ho visto che l'hai scritta un po' dappertutto. Mi ascolti?» «Stai pensando a quella lì, eh?» «Sì». «E lasciala perdere. Quella ragazza ha qualcosa che non va. È come morta dentro e piace troppo agli uomini. Non è per te, capisci cosa intendo? Non è seria, sempre in minigonna. Quella si diverte a eccitare gli uomini. È come la madre. Anche sua madre era così, sempre al bar, a bere, a fumare. Quella ragazza è vuota. Lo capisci?» Capivo. Adesso che dentro c'ero stato, capivo che era vuota. Aveva un buco vuoto che avrebbe ingoiato me, mio padre e tutto il partito, e la DC compresa, e Fanfani, per ultimo, per ringraziarlo di queste case democristiane, dove non ci puoi piangere perché tutti saprebbero, non puoi maledire perché tutti capirebbero, ma puoi scopare fino in fondo all'androne, perché tutti comprendono, senza prendersela troppo, perché in fondo non c'è niente da fare, è la natura. Qualche anno fa l'Eugenia era tornata. Viveva in un appartamento nel palazzo di fronte al mio. Non ho mai raccontato a nessuno quello che è accaduto quel giorno del 64. Certi giorni mi è sembrato talmente lontano da non parermi più mio, come se non l'avessi compiuto io. E in quei giorni, non lo nego, mi sono sentito meglio. Ma c'era lei lì, nel palazzo di fronte. Devi dimenticare, mi dicevo. È così che funziona. A che serve tormentarsi? Anche gli altri hanno fatto così. Adesso sono addirittura diventati nonni. Nella vita la gente si sposa, ha figli, ama, o almeno ci prova. Tutto pian piano acquista un senso nuovo e il passato si fa opaco. Stronza. È volata giù, guardandomi. E non ha lasciato biglietti. Si è uccisa per farmi dispetto. Lo so. E questo dolore alla mano che mi dà il tormento. Ma è stato tanti anni fa. Oggi ho chiamato la polizia. Un gruppo di vecchi accusati di stupro. Patetico. Chissà come riderà la gente appena saprà. Sto ridendo anch'io. Ho chiamato la polizia. Sarà qui a momenti. E magari avranno un medico bravo per il dolore alla mano. Sarà da ridere. Sei vecchi, rincitrulliti stupratori. È accaduto 50 anni fa. Uno stupro è uno stupro, anche 50 anni dopo. Oggi il muggito del traffico in lontananza è insopportabile. Ci sono momenti che ti sembra che le macchine siano tutte attaccate e non ci sia nessuno dentro, che trasportino solo se stesse. Gli uomini stanno altrove e quella è una giostra studiata apposta per farti tappare in casa. Penso che tra mezz'ora sarò anch'io là in mezzo alla giostra, assieme agli altri. Un bambino piange al piano di sopra. Sto in ascolto. Guardo il soffitto. Sopra una giovane mamma sta allattando il figlio. Sento suonare il campanello. Sono arrivati. La mia confessione l'hanno presa sul serio. Dovrò poi scendere nei particolari, arrossisco al pensiero. Mi alzo e cammino fino alla porta. Mi vergogno come uno scolaretto, neanche ci fossero ancora i miei vivi. Mi volto, guardo la casa dove ho vissuto per 60 anni, tutta la vita. In fondo, penso, è un poco piccola. Che stupido sono stato.